Salve a tutti da Bernardo Parrella dagli Stati Uniti. Stavolta ci occupiamo della questione cinese. Ovvero, in questi giorni, come forse saprete, si svolge ad Atene l'Internet Governance Forum e proprio ieri il rappresentante cinese è intervenuto affermando, tra l'altro, che il Partito Comunista Cinese non pratica alcuna censura su Internet, contro Internet e contro i cyberdissidenti, ciberdissidenti. Ovviamente sappiamo che è un'affermazione falsa, abbiamo molte prove. Nello specifico il rappresentante cinese spiegava che il sito della BBC inglese è regolarmente raggiungibile dai browser cinesi quando proprio il moderatore del panel ad Atene era un giornalista della BBC, quindi ha incalzato il delegato cinese, il quale ha cercato di svicolare provocando anche le proteste in aula. In ogni caso, l'intervento cinese ci dà lo spunto di leggere alcune pagine proprio relative alle modalità con cui la Cina sta incastrando e delimitando Internet, alcune pagine tratte da un libro fresco di stampa in Italia intitolato I padroni di Internet, scritto da Jack Goldsmith e Tim Wu, è uscito sempre quest'anno, inizio anno, negli Stati Uniti. In Italia viene pubblicato da RGB Media con la traduzione del sottoscritto, e un capitolo di questo libro, il cui sottotitolo è importante, è anche L'illusione di un mondo senza confini. Un capitolo di questo libro proprio dedicato alla Cina, alla modalità con cui la Cina sta operando su Internet. Ne leggiamo alcuni passaggi. Qualcuno, vedendo rifiorire su Internet la pornografia, il gioco d'azzardo via web e le espressioni razziste, si chiede se le tecniche di controllo degli intermediari e il deterrente individuale stiano funzionando o meno. Ma come dimostra l'esempio cinese, il mancato intervento governativo su certi tipi di comunicazione tramite Internet, in definitiva, riflette la mancanza di interesse o di volontà, non l'assenza di potere. L'Internet cinese che va prendendo forma dimostra che, qualora lo si voglia, lo Stato è in grado di controllare le comunicazioni su Internet. Il governo cinese non sta cercando di controllare tutto quello che gira su Internet. William Ferris, della Commissione statunitense parlamentare sulla Cina, sostiene che il governo cinese sta tracciando una demarcazione sempre più precisa. È possibile parlare di ciò che si vuole, ma senza lanciare minacce dirette contro il governo. Il governo sta quindi tentando di creare un Internet sufficientemente libera da sostenere e mantenere l'economia al passo della crescita più veloce del mondo, e tuttavia abbastanza chiusa da ribattere le minacce politiche al suo monopolio di potere. E ci sta riuscendo incastrando l'ideologia nazionalista cinese all'interno della rete stessa, e lungo questo processo va letteralmente cambiando la natura di Internet in Cina. A causa delle differenze linguistiche e culturali con l'Occidente e per via dello straordinario sistema di monitoraggio e filtraggio, l'Internet cinese sta diventando sempre meno simile alla controparte occidentale. Va allontanandosi dal resto del mondo. La Cina non è soltanto un esempio estremo di controllo, è anche un esempio estremo di come e perché Internet venga delimitata dalla geografia. Soltanto il tempo potrà dire se la strategia cinese funzionerà o se invece l'enorme volume di informazione eroderà l'influenza governativa e renderà Internet libera e aperta anche in Cina. Ma finora la Cina sta dimostrando l'opposto, che l'Internet sperimentato in Occidente è una questione di scelta, non un fato, non un destino o una legge naturale. Per stavolta ci fermiamo qui, proseguiremo domani con altri brevi stralci dal capitolo sulla Cina all'interno del libro Who Controls the Internet, il titolo originale, in italiano appena uscito I padroni di Internet. Grazie a tutti da Bernardo Parrella.